veloce della scuola, ma che si pisciava. Fanculo. Pensaci, tagliarsi i graffi, almeno così li senti arsi sti polsi. Immagina la mia carne presa a schiaffi, e ognuno di questi sfregi, altri sfregi di sbeffi. Stanco delle solite parole addosso, che lo facevano sentire un cesso, Lori si fece seri, taglie e sorrise come pagliaccio per il suo decesso. Vi racconto di come pensai più volte a questo. Figlio di puttana, non hai mai visto nessuno dopo una corsa fortissima pisciarsi addosso? Immagino che fai un figlio e fai con lui lo stesso. Gli urlerai addosso pirla e lo farai magari sentire falso. Molti uomini sono solo puttaniere, di puttane loro stessi troie, di parole e borie. Bulli del cazzo attaccati a sto cazzo, detto in rima giusto, forte dentro al culo come un ossesso. Com'era la storia che racconterai a tuo figlio di aver bullizzato quel povero disgraziato? Io sai, più di una volta con il mio carattere t'avrei strangolato, strozzato, ammazzato, sepolto in un frato. T'avrei mozzato il cazzo a terra schiacciato. Credi che sia impazzito? Caro amico, figlio di una madre ignara, di avere un figlio killer. Come figlio sarai strangolato con piglio dal mio verde miglio. Speravi facessi sparsi versi, speravi che io sparissi, che non avrei mai dato voce a sti versi. E se per caso mi sputtanassi con sti passi, con sti versi, scommetto che arsi, che saresti in un mondo violento sinonimo di successo e vinceresti. Banalizzeresti me, chiunque, purché il tuo ego si soddisfi. Ma sappi che ho cancellato, rimosso d'un tratto, tutto quello che sei, perché sai vale meno di un matto. Fra da parte di chi è stato bullizzato ti mando saluti diabolici, il poeta incazzato. Fra da chi parte è stato bullizzato ti mando saluti diabolici, il poeta incazzato. Pensa, tagliarsi, sì. Graffi, almeno così lo senti arsi, sti polsi, cazzo, almeno una volta sti polsi arsi. Immagina la mia carne presa a schiaffi, e ognuno di questi sfregi, altri sfregi di sbeffi, e poi basta. Stanco delle solite parole addosso che lo facevano sentire un cesso. Lore si fece seri, taglie e sorrise come pagliaccio per il suo decesso. Fece una foto nel cesso mentre fumava eroina, pensando a quella bambina anche lei bullizzata. Mentre sangue come un rivolo usciva da ogni vena, sentiva nella sua testa: mi faccio pena, sì, mi faccio pena. Dov'è la pistola? Immagino, fai un figlio e farai con lui lo stesso. Gli urlerai pirla addosso e lo farai magari sentire falso. Molti uomini sono solo puttanieri, di puttane lo stesso troie, di parole borie. Bulli del cazzo attaccati a sto cazzo, detto il giusto forte come un bugulo colore il culo, come un figlio di puttana, un toro nel culo. Spero ti sanguini il buco dell'ano, figlio di puttana, ignavo. bastardo, tuo figlio ti odierà.